Contro gli incontentabili, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Se avesse al nascer mio Calliope stessa presieduto e parlasse in me la musa, ancora io canterei queste d'Esopo belle menzogne, che fu sempre il verso in tutti i tempi alla menzogna amico. Ma non mi credo già tanto ad Apollo prediletto ch'io possa all'argomento fornir pregio e splendor. Chissà lo faccia. Intanto io mi contento e voce e senno dar non solo alla volpe e all'agnello, ma le piante e i fior parlano anch'essi come tocchi da magica verghetta. Son bagattelle da ragazzi, esclamano alcuni saggi critici a cui piace il fatto autenticato in alto stile. Son bagattelle rivestite a nuovo. Critici miei, volete udir solenni cose a suon di tromba? Eccone un saggio. Da 5 e 5 ormai si combattea anni d'intorno alla superba Troia, e da 1000 battaglie affaticati cedeano il campo i conturnati Achei. Allor che da Minerva escogitato sorse un cavallo di grande legno in testo, nuovo e fatale inganno. Entro suoi fianchi l'astuto Ulisse e Diomede, il forte Aiace ed altri 100 armati eroi s'appiattarono, e tratti entro le mura le case e templi rovinar di Troia. Così l'inganno, lungamente ardito, pagò dei greci la costanza. «Oh, basta!» sento gridarmi da un moderno autore. «Troppo lunga è la frase, or tira il fiato! Un cavallo di legno e tutti questi armati eroi mi sembran fanfaluche, non men che veder gabbato il corvo da monna volpe. A te male si addice di scrivere in codesto epico stile. Ebbene, se volete un altro tono più melliflo sentir, statemi attenti. Pensa ad Alcindo, la gelosa Eurilla, e di sue pene testimonio intorno non crede aver che il cane e le pascenti sue pecorelle. Ma tra i salci e l'erba ecco Tirsi si avanza, e della bella ode i sospir anch'essa confida al vento, perché li porti al disperato amante. Oh, basta, basta, grida il mio censore, non ci si sente quel sapore classico in questi vostri maltorniti versi che dimandan l'incudine e la lima. E non potrò cantar dunque a mio senno o maledetti critici? È da matto il voler far la pappa a tutti i gusti. Ah, disgraziati, i troppi delicati per cui cibo non v'è che li contenti. Fine della favola Contro gli incontentabili. Questa registrazione è di dominio pubblico.